Wolf Trix, i viaggi del lupo. E ci siamo anche stasera, 8 dicembre, ci avviciniamo quasi a Natale con e Wolf sono Trips. Tornato. Finalmente era ora, visto che sei sempre in giro a mangiare come non so cosa, è finito di andare a ingozzarti. Dovrei averne l'ultimo martedì che sono quelli del calcetto e poi ho finito. Vabbè, basta che non è un altro venerdì, dai. No, venerdì. Tanto faremo le ultime puntate, adesso non so fin quando andremo avanti, però... Ma noi andiamo in oltranza fin quando... No, ascolta, va bene tutto però. Se trovi la porta aperta a Radio Lupo, vieni a trovarci. Se porti anche delle birre, meglio ancora. Bravi. E niente, stasera abbiamo un ospite che poi svegliamo con calma. Che ci deve raccontare... la porta aperta ed è entrato. È bravissimo, bravissimo. È vero. No, in realtà è Fabri che conosco veramente da tanto tempo, ma lo introduciamo bene, per bene dopo. Andiamo ad ascoltarci subito un brano che è The Score con Legend. E poi dopo parleremo un po' con il nostro ospite. Ok. Ciao. Ciao. Torniamo in onda con Wolf Trips. Allora, abbiamo detto quindi che abbiamo un ospite che ha trovato la porta aperta. In realtà non è vero, perché l'abbiamo organizzato, abbiamo invitato, ed è Fabri. Ciao Fabri. Eccomi, ciao a tutti. Ciao gli ascoltatori, ciao Domenico. E ciao Fabio. Fabio. Ciao. No, stasera non mi caga nessuno proprio, Andatevene tutti a quel... Beep. Ecco. Mi sembra di sentire una voce. Però non so se è la vicina che si lamenta dalla musica o se... Ah, può essere. Ah, un'altra che è entrata. No, okay. Però in realtà potrebbe essere, perché effettivamente è successo questa cosa qua. Quindi recentemente, quindi... E anche in diretta, tra l'altro, è successo. E anche in pigiama. Sì, bellissima, eh. Vabbè, dai, allora salutiamola. Salutiamo vicino che tanto ci ascolta di qua dal lato, sì, della camera. Se ci vuole portare qualcosa da mangiare, non ci dispiace. Guarda, noi raccattiamo sempre da mangiare, ma poi alla fine non ci porta mai niente. Chiediamo sempre da mangiare e da bere. Birre, ma nessuno porta mai niente. Soprattutto tu, Fabio, cioè tu sei il primo. Va bene, torniamo un attimino seri, quindi Fabri fa... Facciamo, anzi, perché l'altra volta si è ripresentato che aveva fatto il DJ e organizzatore di eventi. Sì. In questa veste qua invece oggi cosa fai? Allora, oggi continuo sempre a organizzare eventi, no, ho smesso ormai da un bel po' di tempo. Ci si evolve. Diciamo che continuo a suonare, magari un po' meno frequentemente, però faccio continuamente radio e continuo il mio lavoro sulle web radio e anche su una radio FM che si chiama Radio Pianeta. E lì propongo in due radio propongo musica attuale, perché comunque principalmente la musica attuale mi piace molto, mi piace seguire la novità da sempre, quindi penso che ci siamo confrontati su questo, penso che siamo appena smetterò di avere questa curiosità sul nuovo, penso che secondo me significa non avere più passione, quindi finché c'è questo vuol dire che hai ancora la passione dentro, vuoi sempre scoprire mondi nuovi, musica nuova. Comunque oggi sono qua per parlare di una compilation che sta per uscire, che però non è musica attuale ma musica anni 90. Io faccio un programma da molti anni, ormai dal 2012, ho creato questo programma che si chiama Novantology e va in onda su questa radio che si chiama Radio Dancefloor, che è stata premiata anche a Roma al Web Radio Festival che si è tenuto 2 anni fa come miglior radio web musicale. E il mio programma è stato uno dei primi ad andare in onda, oltre ad avere dei grossi riscontri. È un semplice programma mixato, non è niente di... Sì, quindi è un programma mixato. Non è niente, forse la forza è proprio la selezione, come vengono proposti i dischi, perché c'è da dire che quando si fa la musica anni 90, molti o mettono le 25 hit classiche, o fanno i fenomeni mettendo solo dischi sconosciuti e uno quasi cambia canale, perché insomma devi vedere la radio un po' come se ci fosse una pista davanti. Se metti solo musica sconosciuta a un certo punto uno cambia e si stufa. E invece il mio programma cerca di ricordare cose dimenticate, magari anche a volte anche estreme, e nello stesso tempo mettere qualche classico che la gente ricorda. In che senso estreme? Estreme perché a volte mi è capitato anche di mettere dischi happy hardcore o comunque tipo DJ Cerla, anche cose più forti come Always Hardcore, Hardcore Vibe. E se dovessi dare un consiglio a qualcuno che ci ascolta di musica anni 90? Allora, adesso sicuramente non puoi dire la canzone perché sarebbe una cavolata, no? Però tra le più belle canzoni che puoi ricordare degli anni 90 che magari metti nel tuo programma, che cosa potresti consigliare ad ascoltare ai nostri amici? Beh, penso che quella più rappresentativa, oltre secondo me essere la più bella, è il Rhythm Is the Dancer degli Snap. Penso che quel disco ha segnato, diciamo che ha creato anche degli stili che poi si sono stati ripresi seguiti da tanti come Hadway, La Blush e tutti questi altri, Corona. Ok, adesso facciamo un salto invece nel presente, andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo e poi riprendiamo con voglio sapere qualcosina in più magari su questa compilation che stai preparando. Questo te lo lascio presentare a te, visto che non so come si pronuncia. No, ma non sempre queste figurate. No, posso dire una cosa. Sì. Io dico Kaigo, ma è sbagliato. Ma non so come in si teoria pronuncia. Si dice Kigo. Vabbè, Kigo. Vedi che allora avevo ragione io. Perché, no, è Kigo, la pronuncia esatta è Kigo. Lui è norvegese, mi sembra. Sì. E fa delle cose veramente fighissime. Ho notato, questa non la conosco. Stargazzi, mi piace molto. E allora lo farei presentare a lui il pezzo, che lo conosce molto meno di me. No, Fabio ne sa sicuramente di me. Sì. Prima proprio di Kaigo stavamo parlando. No, come cazzo si chiama? No, Kaigo, ero andato a Kaigo io. È un certo brontolio. No, su Kigo sono preparato. Sì. In diretta? Va bene, dai, ascoltiamoci. Ne parliamo allora, dopo. Kigo con Stargazing. You can always find me in the stars. You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The seeing decides. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The seeing decides. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. And say it's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear, they keep blazing. Even when the night era Kygo, giusto? Dato giusto? Sì. Bravo, era un pezzo che tra l'altro non l'ha suggerito nessuno che si chiamava che si chiama Kygo anziché Kygo, no. Cioè la cosa che Domenico proprio già sapeva. Infatti, quando è entrato nella porta. Su Wikipedia c'è anche il vocale, si chiama Kygo. No, che tra l'altro lui fa sempre dei pezzi così, no? Che parte molto soft, sì, con questa voce come dicevi anche sì, tu, sì, molto sì, blanda, sì. Poi c'è questo pezzettino, ma leggermente tamarro, dai, neanche tanto. È un po' diversa quella che sta girando adesso, che si chiama Kids of Love. Sì. E a volte ha un piano che non so perché mi ricorda un po' Vangelis a tratti, bellissimo. È abbastanza spinta però forse per questo programma, però è carina. Ma sì, ma noi ormai cavalchiamo l'onda. Tanto lo sappiamo che l'animo è quello. Ma se comincio a venire io ogni venerdì, ecco, o quasi, questo qua diventa un programma tecno. Non so quanto ci tengono ancora qua Radio Lupo, ma fa niente. Pazienza. Io meglio col rock, ogni tanto. No, però qualche pezzettino rock ogni tanto lo stiamo mettendo. Sì, rock nuova, roba nuova, rock, qualcosina l'abbiamo messo. Voglio dire una cosa, Fabio, perché non vorrei che poi pensasse che io sono quadrato. Io sono molto aperto sulla musica, quindi mi piace anche la musica rock, mi piace la musica italiana, mi piace l'hip hop. Siamo noi che siamo ottagonali. Poi vabbè, poi ovviamente uno si esprime dove meglio. Io sono quadrato. Quadrato. No, tu vieni da Mogadiscio così, però. Vabbè, perché oggi non so se va la webcam, quindi gli ascoltatori non possono vedere. Meno male, perché ci siamo vestiti malissimo, sì. E quindi cazzo, tu fuori di vestito la domenica. Vabbè, vabbè. Stiamo parlando quindi della tua compilation che uscirà, non si sa uscirà, quando, giusto? Prima di Natale penso che uscirà. E uno dice: dove va? Dove va? Dove va? Nei portali. Nei portali. Perché adesso, certo, ovviamente i negozi di dischi non ci sono più. Peccato. Però ci sono anche. La troveremo comunque anche in qualche negozio. Anzi, adesso qualche forse, distributore. Forse adesso... Online. Ah, dove cazzo le. Dove mettere le compilation? Nelle librerie, no? Sì, in edicola. Sì, sì, ormai in librerie ci sono. I negozi di dischi chiudono, però. Io vado nei centri commerciali. È l'autogrill, quindi se vi capita. Passate in auto. Solo che devo dire una cosa dell'autogrill, giusto per. Cioè, se tipo una compilation, adesso spariamo, costa 6 euro, l'autogrill ne costa 60, non si sa perché. Cioè, sì, c'è sempre questo leggero aumento dei prezzi, però vabbè. È perché se devi andare in bagno e non consumi, devono. No, dici sì, sui soldi da qualche altra parte. La carta igienica costa. Ma uno si chiede: ma questi 60 euro, un po' di soldi se li tiene in tasca chi l'ha prodotta? O se li tiene tutte le autogrill? No, anche perché giustamente mi stavi raccontando prima: non è facile fare una compilation. Cioè, mettiamo noi che abbiamo un gruppo, ci cioè facciamo i nostri brani. È una cosa. Infatti, prima noi. Chi fa la compilation è più complicata la cosa. Infatti, Domenico, ti dirò: il problema maggiore è che ci sta facendo perdere un po' di tempo proprio l'aspettare il via libera dall'etichetta su un pezzo che vuoi inserire, eccetera, eccetera. Quindi si stanno un po' dilungando le cose, non è semplice. Poi se vabbè hai tutti i pezzi tuoi, cosa che magari le avessi, farei una compilation dall'oggi al domani. Sì, non faresti la compilation con la musica anni 90. Cioè, la parte burocratica è sempre quella. Anche più perché ostia. Io, chi mi conosce, non sono produttore, quindi assolutamente non potrei. Giochi molto sulla selezione, quindi ci sarà una selezione impeccabile, giusto? Sì, sicuramente, dai. Va bene, va bene. Tu Fabio negli anni 90 cos'è che... Tu ascoltavi rock secondo me io negli sì, anni 90. Non ascoltavi roba Tamarra, quella bella? Vabbè, ma quando eri piccolo un po' tutti ascoltavano Ma sei uno di quelli che a un certo punto ascoltava la Unza, poi da quando si è innamorato del rock basta, la Unza non ne parlare proprio o... No, io vabbè, come tutti i bambini, a scuola si ascolta un po' di tutto quando si è piccoli, no? Poi dopo mi avvicino più al rock, però gli amici ascoltavano la Unza, quindi ascoltavi un po' la Unza con loro. Quel personaggio lì io l'ho conosciuto che suonava in una band rock musica dance, non so se ti ricordi. Dance rock, quindi... Noi facevamo la dance con gli strumenti musicali. Fabio da piccoli si ascolta la musica che ci... Martellano i genitori. Sì, quello è normale. C'è il papà che ti insegna: tu diventerai un grande punk rocker. E io pensavo diventare Billy Joe dei Green Day ai tempi, negli anni 90. Sì, a posto siamo. Beh, sei Billy Joe, però diciamo di Samarate magari. E infatti. Perché Samarate che non è di Samarate? No, però diciamo per una zona ristretta. Limitrofa. Ecco, sì, Samarate in California, no? Te lo dico famoso io. Famoso Samarate della California. Sei Billy Joe del tuo palazzo. Bravo. Così siamo. Lasciare Baiaria, come si dice. E, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che stiamo parlando di Alan Walker, che lui è abbastanza famoso però. Ma noi lo conosciamo. Sì, cioè, certo, ma adesso un WhatsApp. No, ha fatto dei brani ultimamente anche molto remixati, che si sentono anche sulle radio un po' più... Diciamo che però Faded rimane la più bella che ha fatto. Sì, Faded anche è proprio bella. Sì, era sì. Anche una cosa diversa, la battuta lenta, con i suoni un po' particolari. Adesso si sono un po'... diciamo susseguite un po' troppe canzoni su quello stile. Comunque andiamo a ascoltarlo, così vediamo un po' come è cambiato, si è commercializzata. Vediamo la un po' scena. Il brano si chiama All Fall Down. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so mind. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground. It's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when dai, non era male questo brano qua. No, dai. No, quando ti dicevamo, ascoltavamo. Wasabonga, yeah, yeah. Però, giustamente, come diceva Fabri, ne ha fatte di più belle, dai. Ne ha fatte di più belle, sì. Questo era nuovo, quindi ho detto, vabbè, lo mettiamo. Però sono più o meno sempre simili. Sì. Speriamo che cambia un pochettino adesso. Come sì, fa quello stampino, imbroccata quella giusta, le replica. Sì, sì. Beh, ma c'era sta moda. Tra l'altro, la Walker si presenta sempre con. Come si dice? Con. Non so come. Col cappellino e la faccia mezza bendata. Passamontagna. Ah, è vero. È vero. Passamontagna, hai ragione, sì, forse hai ragione, sì. Che sembra tipo. È tipo Cristina prima, ecco, che si è messa. eccolo qua. Infatti, ho recuperato una foto. Sì. Abbiamo un contributo visivo, come direbbero nei programmi seri. Sembra un ninja. Sì, infatti. Vabbè, oh, è il suo stile, che ti devo dire. Chissà se lui ascolta Wall Street. Sì, no, sicuramente. Infatti, ci ha mandato un messaggio prima. Sì, quando è che andate in onda? Perché era lui che gli ho risposto. Non posso stare senza. E tu gli hai detto che c'era la bassa marea, quindi in onda. Tra l'altro, mi ha anche chiesto se lo inseriscono nella compilation. Ah, sì. Già fatto. E poi dopo, giusto per chiudere il discorso della compilation, quindi tu la stai realizzando con sì, insieme a Bruno Cardamone, Bruno Lecard, che ha anche un'etichetta che si chiama BLK Records, distribuita dalla Self. Oh. E quindi ci tenevo a salutarlo, perché questa idea tra l'altro è venuta a lui, non a me. Ero a Firenze, mi ricordo ancora, sono andato a Firenze così a fare un giro e lui mi chiama al pomeriggio e mi dice: mi piacerebbe realizzare una compilation anni 90 mixata da te. Però non c'era l'idea di associare il mio programma alla compilation, una compilation anni 90 generica così. Poi dopo lui mi ha detto: però visto che il tuo programma comunque ha molto seguito, quasi quasi potremmo chiamarla proprio così, unirle come il tuo cose. Programma e la mixi, la selezioni e poi la facciamo uscire sulla mia etichetta. Quindi poi l'idea, figurati, mi è piaciuta, anche perché io compravo compilation a nastro quando ero ragazzino, ho sempre sognato di anzi mi facevo le cassettine con delle compilation. Sei malato con come l'etichetta me. Scritto compilation de che ho fatto a casa mia. Sei e malato basta. Come al massimo me. Le davo a qualche amico e basta. Adesso l'idea che esce una compilation che trovi nei negozi o comunque anche nei portali mi riempie di gioia, insomma. No, io mi ricordo, a proposito di fare compilation con le cassette, che le facevo io, registravo i pezzi dalla radio e poi dopo le univo secondo la mia logica, no? Tipo facevo una classifica e poi le facevo. E poi mi ricordo, ogni volta che andavamo in gita o qualche parte, rompevo le scatole per mettere su quella cassetta, dunque rompegli le scatole a tutti e ascoltare la mia compilation. Lo facevo anch'io con l'autista del pullman, sì, che ci portava a casa alle scuole. Sempre così. Le mettevano le compilation? Sì, mettiamo la cassettina. Sì, mettiamo la cassettina. La cassettina. Perché c'è 5 chi... minuti, poi basta. No, piacevano. Sì, sì, mi ricordo. Io ne ho vendute tantissime. Una volta si poteva anche fare. Adesso penso che se nei locali ti metti a vendere una compilation, ti arrestano come minimo. Sì, guarda, sì, non diciamolo neanche. Le uniche compilation che facevo era quelle che mettevo nella macchina quando andavo in Camporella diretta. E non ti si scaricava la batteria. Eccola. Siamo una batteria doppia io. E mi ricordo che in una di queste compilation, così a orecchio, mi ricordo che avevo messo, pensa, avevo registrato live dalla radio X-File, che era, adesso non mi ricordo, DJ Dado, bravissimo, quello lì sì, era il periodo, era quello, diciamo, da quando ho iniziato a fare un po' le compilation. E non sei era molto male. Giovane, sì, infatti, guarda, penso che, beh, DJ Dado comunque lo conoscono quelli che hanno vissuto, quelli che hanno 30 anni, uno che ha 15 anni dice che cazzo è. Infatti, lui direbbe che è quello della star, però. vabbè, ma perché lui segue un altro genere, un altro filone, dai. Non è. Comunque, sì. Sì. DJ Dado adesso fa un po' ridere come nome, eh? Sì, adesso sì. Però dai, ma c'era anche DJ Knorr, no? Non era... No, era fit. Andiamo ad ascoltare un altro pazzo, secondo me, perché l'artista che viene dopo è Macklemore, l'ho detto giusto, chi lo sa, fit Kesha, che non so se è mai presente. È cantante, sì. Quella... Gnocca. Quella? Cerca e analizza. Macklemore, che è sempre vestito in modo un po' particolare. Quello ne abbiamo già parlato l'altra volta. No, forse tu non c'eri. No, non c'era Fabio. Tu non c'eri. Il brano non era mangiare. Il brano non è carichissimo, devo dire la verità. Però le sonorità non mi dispiacciono. Poi, comunque, man mano andremo avanti nella puntata, aumenteremo un po' il beat, come al solito. E il brano si chiama Good Old Days. Told me that someday these will be the good old days. All the love you forget, and all these reckless nights you regret. Someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of these good old days. I was thinking about the band, I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older. Couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. I wish somebody would have told me, babe. The good old days, all the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you and that futon. We just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe. We're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was. Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far, I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars, I've been around. I felt some pain, I seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know, oh, oh, what you got, oh, oh, till it goes, oh, oh, till it's gone. Allora, giudizio su Kesha? La voce è bella, dai. Ragazzi, mi sono innamorato. No, ragazzi, è dell'87, anche giovane come ragazza. Sì, sì, sì. In effetti uno, quando pensa a Kesha, pensa sempre solo alla musica, non pensa all'aspetto fisico di Kesha. No, sì, no, ma lui subito, ogni volta che c'è la... Io sono il classico cane da trifola, come si dice nel gergo. No, lui appena c'è un nome femminile, basta. Va cioè a cercare com'è. Beh, è normale, cioè dobbiamo informarci per i nostri... In effetti prima Alan Walker pensava fosse una femmina, è apparso quella fotaccia. L'altra volta... Sono rimasto un po' così, basito. L'altra volta avevamo messo un pezzo di Lord... C'è bravissima, rimasto, bravissima, voce bellissima, bellissima, ma lui ci è rimasto malissimo. È brutta lei. Non è proprio... Diciamo che fa è il contrario della musica che mette. No, la voce è bellissima, la musica è bellissima. Però diciamo che poi è un po' Lord. Guarda, mi è venuta la curiosità di vedere Lord. Devo ancora mangiare comunque. No, no, allora aspetta, no, allora aspettiamo. Vabbè. No, vabbè, non è vomitevole. Diciamo che non è Kesha. No, ecco. C'è solo un piccolo problema. Se Lord fosse all'ascolto, non vorrei che si offendesse. Quindi le diciamo che. Però abbiamo detto che comunque i pezzi sono belli. I pezzi sono belli, dai. Poi... c'è nulla da dire. Vocalmente eccezionale. Anche musicalmente. Musicalmente, tra l'altro, sto guardando un po' i suoi vecchi brani. Il primo che aveva fatto, che avevano fatto anche la pubblicità di un Samsung vecchio. Cioè, c'ha non so quanti milioni di visualizzazioni. Cioè, sì, una cosa sì. Incredibile. Quindi, cioè, il suo successo credo che l'abbia fatto per bene. E stavamo parlando ancora un po' di quello che hai fatto in passato. Volevi ricordare qualche... Volevo ricordare che probabilmente tra i progetti futuri ci sarà questo, diciamo, una specie di tour itinerante con il nome del mio programma, appunto, Novantology. E bello, diciamo roba. Che l'abbiamo già iniziato da un po', perché al di là del fatto che io ho cominciato a fare ogni tanto delle serate anni 90, in un periodo quando a Varese o comunque in questa anche Milano ne facevano veramente poche. Sì, ormai stiamo parlando del 2007-2006. Sì. E tra l'altro uno l'ho fatto anche con Mr. Johnny, che lo saluto. E diciamo che salutiamo. Johnny. Ciao Johnny. Mi raccomando, qualche volta fatti vedere. Sì, infatti, da tanto che non si vede. Sì. Vieni qua, portaci da bere e da mangiare. La porta della Roma è sempre aperta. Esatto, poi dopo vai. Porti solo a mangiare. nel podcast del programma lo tagghiamo, vediamo se si ricorda di noi. Volevo dire che, appunto, questa cosa di fare il tour è una cosa che è già nata così involontariamente. Infatti ho fatto delle serate anni 90 a Riccione, a Milano, a Roma sempre con la radio, poi l'ho fatta a Milano, a Milano l'ho detto, e poi l'ho fatta una Pietra Ligure a gennaio con Claudio Diva, Cominotto e tanti altri diciamo esponenti della Techno Progressive. Infatti era una serata più techno che... Anche l'anima di Novantology forse è un po' più techno, se vogliamo. Poi, anche se comunque le mie tracklist, le mie puntate variano molto, non sono fisso su un genere. Ecco. Ma a parte questa compilation che deve uscire e il programma, hai delle date da qui a attendere che possiamo venirti ad ascoltare? Sicuramente, però momentaneamente no, non ti so dare una data, momento, però... Okay. Ne stiamo organizzando una, probabilmente si terrà a Milano e quindi sarò felicissimo poi di avvisaci che noi avviseremo tutti. Grazie. Sì, sì, a lui piacciono questo. Ma ti voglio chiedere una cosa invece, visto che è vero che tu hai detto hai suonato nel 2006 quando ancora non era diffuso. Esatto. Ma adesso invece cosa ne pensi di tutti questi eventi che fanno? Che ne fanno un'infinità. Un po' troppi veramente. La cosa triste è che non puntano più sulla musica nuova. Non puntano più sulla musica nuova, che anche è vero che in molti casi non stiamo vivendo un periodo molto fantasioso per la dance. Però anche continuare a rivangare il passato non mi sembra una cosa così giusta. Io penso a una cosa: quando io avevo 15 anni ascoltavo la musica nuova, se adesso avessi 15 anni e mi trovassi ad ascoltare la radio un programma con la musica nuova che mi passa continuamente gli anni 90, cioè musica di 25 anni prima, è come se io quando avevo 15 anni avessi ascoltato gli anni 70 in un programma di musica nuova. Infatti, insomma, non è una cosa molto... No, ma infatti il discorso, il ragionamento che tempo fa facevo anche con un altro mio amico, cioè se il se tu sei nel 2000 e stai facendo suoni il revival degli anni 80, nel 2010 suoni il revival degli anni 90 e nel 2020 continui a suonare il revival degli anni 90, allora vuol dire 20 anni di muro, 30 anni di muro, non esistono, è successo quasi niente, non c'è niente, sì, è vero. In effetti non si è mai evoluto niente. In effetti non è che ci sia stata una grandissima evoluzione, nel senso, però è anche un po' a volte penso che un po' un ambiente va un po' svecchiato, perché le radio purtroppo comandano. È l'Italia. Parlo da ignorante perché è una cosa che conosco poco, Metto io sono nel lato più rock rispetto che la parte destra. Ma anche nel rock è così, però anche per il rock. Magari chi va adesso all'estate degli anni 90 alla nostra età, che negli anni 90 aveva 15 anni, dice: va ad ascoltarmi la musica di quando ero piccolo che mi piace, no? Che mi è piaciuta, che mi ha fatto crescere. Esatto, cioè, ma uno che ha 18 anni adesso dice: minchia che bella sta musica, io manco ero nato. Bravo. Non ho capito. Non capisco l'emozione di andare a sentire. Può essere un pezzo che dici, può stare nelle tue corde, certo. Ma tutte le canzoni siamo un po' la forzatura per un ragazzino di quell'età, no? Però devo ammettere che, non so, sarà che in quel decennio sono successe tante cose, ma per quanto riguarda gli anni 90 c'è molto interesse anche dei ragazzini. Sembra strano pensarlo, però anche il programma è seguito anche da un pubblico giovani, perché si hanno la curiosità di ascoltare quello che andava ai tempi, è vero, anche a me interessavano gli anni 80 quando avevo magari la loro età, però è anche vero che guardavo il futuro. Comunque anche per il rock è così, perché c'è gente che ascolta sempre i Clash, sempre i Sex Pistol, perché, allora, ce ne sono di gruppi nuovi. Parlo della parte del rock. È vero che tu ascolti i pezzi vecchi per prendere degli spunti, per dire, i Clash hanno inventato tanti stili di musica, no? Sì. Cioè hanno preso, Rock the Casbah, che è una canzone bellissima, che tu la vedi, ma se tu la analizzi dici, cavolo, sembra una stupidata, eppure ti ha fatto uno stile, hanno fatto i Clash. Potremmo metterli. Bravissimo, io sono in questa idea. Per dire, il rock poi si è evoluto, nel senso, tu pensa, non so, i Beatles, i padri di non so quanti stili, che è vero, inventato. Un po' come nella dance, magari i Daft Punk con Homework hanno praticamente creato tutto quello che poi è avvenuto fino a che sta avvenendo anche adesso con la musica. Hanno anticipato i Chemical Brothers, i Prodigy, tutti questi, e anche la musica elettronica in generale, house, techno, funky. Sì, in un album solo, diciamo. È vero. Infatti, è vero. Poi dopo molte volte quando vai a ascoltare roba nuova e conosci, sono solo dei reimpasti con magari un innesto di qualcosa, sì, ma è un reimpasto di qualcosa che qualcuno si era già inventato. Cioè il nuovo stile al 100% non esiste più. Non esiste. È un mischione di contaminazioni passate con qualcosa di nuovo. E a proposito di contaminazioni e cose nuove, però, perché a me piace sempre cercare invece. Qui abbiamo la dance e la rocca. No, questo brano qua io lo passavo spesso l'anno scorso, non so se ti ricordi. E poi adesso ho iniziato a vedere che sta esplodendo un po'. L'ho sentito anche in una pubblicità, per dirti, quindi... Ma questa è la mia amica, quella gnocca? No, sono dei ragazzi Io punto loro sempre. Si chiamano Portugal The Man. In realtà vengono dall'Australia. Non so perché si chiamano Portugal The Man, però. E il brano si chiama Feel It Still. E secondo me non hanno fatto cosa di nuovo, però un genere leggermente... Qualcosa di nuovo c'è, secondo me. Non so, proviamo ad ascoltarlo. My hands on myself. You go dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. I've been feeling it since 1966, man. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. Let me kick it like it's 1986.

of every man's life when he's got to have his woman's love. Y'all don't hear me? Bring that bass back in. Rientriamo dalla pubblicità con Curtis Erding, Need Your Love. Ascolta. Nuova nuova. Con questo... Ecco, sono infastidito. Particolare. Particolare, sì. Sì. Groove funky, secondo me, un minimo. Sì. Rock funky, secondo me. Ci potrebbe stare nel genere così, dai. E no, niente, prima abbiamo avuto un bello scambio di battute sulla musica. Ci ha detto che stai andando commerciali, è colpa tua, io te lo dico. Colpa tua, no, sto scherzando. No, io volevo dire che ci sta un po' questa come si dice, questa deviazione, perché ci sono dei pezzi fighissimi in giro che se li metti adesso fai ancora bella figura, magari poi tra un mese diventano un po' troppo popolari, però è giusto secondo me trovare la giusta alchimia tra noi, siamo proprio la novità in borderline prima che arrivi. È vero. Ecco. Infatti il brano che ascolteremo dopo è la conferma proprio di questa cosa qua, però ne parliamo dopo. Tra l'altro io faccio una classifica ogni settimana che tutti i DJ mi scoppiazzano appena manca mi chiedono: ma non la fai, ma quando torna, eccetera, perché molti la usano appunto nelle serate, ascoltano qualche titolo, e anch'io lì lo stesso ragionamento che facevamo insieme prima, appunto tu, Domenico e Fabio, che le canzoni quando cominciano a diventare un po' popolari nella mia classifica praticamente escono, se ne vanno, perché le anticipiamo, diciamo, vogliamo anticipare un po' i successi, ce ne accorgiamo, le vogliamo pompare come si deve. Siamo dei ricercatori. Siamo dei ricercatori. Despacito, a che punto è? Despacito non è mai entrata nella mia classifica, quindi... Eppure devo dirti la verità, l'altra sera stavamo guardando il programma, quello sul 5. Sì. Music, ecco, e c'è stata il live di Despacito. A me non piace, però a dire la verità, dal vivo no, è bravo, era bravo, è molto bravo quel ragazzo. Cioè, la cantava proprio cantare. Live. Era... Sì. Ma io anche se non mi piace Despacito, però è una canzone di tutto rispetto. È anche complessa. Anzi, penso che se avessimo fatto uno di Despacito saremmo tutti contenti. Ecco, non saremmo qua sicuramente. Saremmo Despacito proprio via. Proprio. Tra l'altro mi sembra che anche la canzone che ha fatto record di visualizzazioni. Di visualizzazioni e anche di vendite nella storia della musica latina. Insieme a mi sembra la Macarena e un'altra che adesso non mi ricordo, quindi comunque un record. Sì, è andata tantissimo, veramente. Speriamo che non torni mai, però che vada. Speriamo che lui Sponsi si goda i soldi senza fare più canzoni. Sì, che questa canzone l'abbiamo sentita trita e ritrita. Vero, in tutte le salse proprio, cioè. Salse, merengue. Tu aprivi latino. La finestra di casa, passava una macchina e c'era questa canzone sotto. Despacito, sì. Vero. Io una volta ho aperto il frigo e partito da Despacito. Ma io ho citofonato casa mia. C'era di espansione, ma chi è che l'ha messa? Chiamatene subito l'elettricista. più che un elettricista, ci vuole un esorcista. A proposito di esorcista, Marilyn Manson, com'è stato? Io non l'ho vista la puntata, però mi hanno detto che è stata abbastanza. È stato gettonato comunque. Dal pubblico è stato molto gettonato. Ho capito. E no, in realtà, devo dirti la verità, a me non è dispiaciuto. La musica non è male. Quindi. No, stavo cercando di fare un po' di cavolate, però non riesco a parlare, a fare cavolate. Io vedevo dallo specchio del tuo vetro, ma che cavolo sto facendo? Io ho quasi temuto che partiva Despacito in questo programma. No, perché mi hanno detto, partiva in continuazione, volevo lanciarla sotto, ma... Sì, secondo me è giusto la nota. Giusto. Però non ce la facevo, stavo parlando. Diciamo che se fosse arrivata la signora per lamentarsi... Con i bigodini. La musica con i bigodini e il pigiama, penso che l'avremmo stretto la mano. No. Infatti. Anzi, veniva lei a cantarci Despacito. Veramente, magari c'è bella musica stasera. No, stavo dicendo di Marilyn Manson. No, ha fatto una canzone cantata malissimo, secondo me, perché il suo classico no, non era Beautiful People, era Enjoy the Silence, forse era Enjoy the Silence, della sua versione, però si vede che era fuori forma perché ha cantato proprio male, la gente lo applaudeva così, ha fatto anche un gestaccio del tipo sputare quando la telecamera l'ha inquadrato, sì. Però vabbè, lui entra nel suo personaggio. Comunque, a proposito di The Beautiful People, che prima Fabio mi ha ricordato, un po' di tempo fa, forse qualche 5-6 anni fa, un certo Chris Lake aveva prodotto un pezzo Tech House, riprendendo Marilyn Manson. Questo per dirti che io avevo suonato quando abbiamo suonato insieme alla sicuramente. Io lo mettevo tantissimo. Si chiama anche l'area 51, come si chiama? Sì, 54. Beh, io una volta ho sentito un pezzo di Nirvana fatto house. Sì, certo. Smell It and Speed, che però era ascoltabile perché ascoltavi Nirvana, dicevi, assolutamente. Infatti l'ha ripresa in tutte le salse e l'hanno fatto, non hanno abusato anche troppo. Però quel remix che ha fatto Chris Lake su Marilyn Manson, che poi non è Nirvana, Marilyn Manson è già più difficile da incanalare in un disco tech house. Avevamo fatto veramente un bel lavoro. Voi sapete che Marilyn Manson, che lo vedete così brutto e cattivo, no? In verità è una mezza sega. Non è così cattivo, come la sua immagine. Ma è il personaggio. È il personaggio che lui ha. Però si è creato la sua, se è l'immagine del ecco, magari è stato più avanti degli altri, perché adesso l'immagine vederlo, mi fai vedere un'immagine di lui senza, ma ne siamo sicuri? Cioè, io ho già mangiato, quindi però è precursore Marilyn Manson, perché adesso l'immagine conta tantissimo. Sembra uno spadino qua, vedi? Sì, io mi ricordo che uno dei suoi primi video che andavano su secondo che era, sembrava una donna ma era un uomo, vero. Ti lasciamo un po' così, vero, lasciamo un po' perplessi, dici ma chissà chi è questo personaggio. No, e niente, mi è partita la base. Mi fa sconcentrare stasera. Detto, quindi, secondo me è Marilyn Manson che ha creato. Sai che quando chiami lui non sai cosa può succedere. Tra l'altro, dato che stiamo parlando adesso, dobbiamo introdurre il pezzo successivo. No? Dato che Marilyn Manson avrà un suo migliore amico, no? Avril Lavigne, no, lo sto scherzando. Infatti, quindi giusto per farlo rivoltargli un po' lo stomaco dove lui sia, gli facciamo ascoltare questo brano che è di Sophie Tucker, Best Friends. Capito? Okay. Te l'ho buttata lì. Tuck! Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Don't you wanna meet me at the bar? Yeah. Wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's what we're here. Okay. Think that mi dicevi che erano migliori amici Avril Lavigne e Marilyn Manson. Erano amici. Saranno ancora amici lui e lei e Manson. Sì, dai. Sì, sì. Poi abbiamo visto anche l'ex moglie, che era Dita Von Teese. Stavo guardando adesso. Devo dire che ha ottimi gusti. Ha ottimi gusti il nostro amico Manson, E noi pensavamo fosse come lui, in realtà. Invece no. Non c'entra, non ci azzecca proprio niente. Ci ha preso bene. Intanto, il pezzo che abbiamo ascoltato, visto che abbiamo lanciato in fretta e in furia, era di Sophie Tucker, Best Friends. Insieme alle Nervo. Alle Nervo, che e sono... questo è un brano che io mettevo in classifica un bel po'. Sì, sì, ormai è diventato super commerciale. Ormai è diventato famosissimo. Tra l'altro l'abbiamo ascoltato anche forse in una puntata di Amici, forse c'era dentro, per dirti proprio il livello che ha toccato questo brano. Vabbè, non mi cosa sovviene. Così. Sì, sì, sì, sì. Quindi allora praticamente ormai siamo sono già le 9. Il tempo vola. Il meteo adesso arriverà, il meteo è lì da te. Qualcuno ha detto che domani nevica, io mi sono subito toccato, non vi dico dove ma mi sono toccato. Il problema è che io le previsioni le guardo, cioè guardo solo la presentatrice, la valletta che fa le previsioni, okay. E mi perdo sempre. Adesso arrivano le previsioni Epson Meteo, cioè arrivano sempre alle 9 solitamente. In caso dopo, baccato, ma domani piove? No. No, gonna corta. No, danno tacchi a spillo domani. Abitino leggero. Quindi, allora, noi andiamo avanti un altro po' col programma. Cosa io, vuoi fare? Ti salutiamo? Sì, sì, ci, sì. Ci salutiamo qua. Io volevo ringraziarti innanzitutto. Volevo ringraziarti innanzitutto per avermi invitato e quindi probabilmente ci saranno altre occasioni. Io comunque per ora dico sì. La compilation è in uscita e poi magari ci sentiamo per inizio anno prossimo. Per inizio anno vediamo prossimo, se magari arrivo con i CD. Compilation arrivo, uscita. Arrivo a compilation uscita. Sì. Devo portare da bere. Guarda, anche da mangiare, Se porti due birre, male non fa. Se vuoi anche i pasticcini. Vabbè, non esageriamo. Non esageriamo. Arriva, si è fatta una certa, ci abbiamo fame. Quello sì, però vabbè, dai. E niente, dai, va bene. Allora ti ringraziamo di essere passato e posso solo dire sì, l'ultima cosa, che c'è l'ultima puntata del programma che va in onda per quest'anno, ovviamente, sì. Che va in onda il 23, quindi la vigilia di Natale, su Radio Dance Floor alle 15 e replica la domenica del, praticamente il giorno dopo alle 21 e il mercoledì successivo alle 21. E se stasera volete ascoltare invece me ne devo andare, no lo so, basta pubblicità o posso no infatti no io in realtà, io no, ti volevo chiedere, pensavo che Domenico mi stesse cacciando, detto, adesso basta sta pubblicità ma scusami la bustarella che mi ha dato prima sì è vero, diamole un senso E quindi stasera c'è anche un altro programma che è un programma di musica mixata house, tech house, insomma un mondo un po' un genere completamente diverso da Radio Lupo, quindi diverso da Radio Lupo, si chiama Mix Master e va in onda a mezzanotte su Radio Pianeta www.radiopianeta.it oppure in FM su 96.3. Ma ti volevo chiedere quindi i tuoi contatti in generale, magari Facebook, robe così, queste robe social, che si possono così dare però Instagram. Sì, c'è la pagina Facebook. Pagina Facebook, più che quella. Fabri DJ. E poi posso dire che ho anche MySpace, ma non ne frega niente a nessuno perché è morto. MySpace poi è una cosa. Poi c'è anche Twitter che non lo guardo da un anno. MySpace esiste ancora? Twitter sì. MySpace non so se esiste ancora, ma ogni tanto mi arrivano le notifiche in posta. Sì. Quella è una cosa strana. Netlog. C'è ancora qualcuno Netlog, che... Netlog, ragazzi, Netlog. Netlog penso che è stato acquistato da Badoo, forse. Sì, forse sì. Ma forse adesso fa più... è proprio Instagram quello più... Sì. Gettonato. Più gettonato, sì, sì, sì. Ragazzi, questo Snapchat che sento ogni tanto... Non so, a me sembra di stare di cose schifose. Snapchat è più da ragazzini dai 13 in ai 15. In treno, se senti Snapchat. Boh. Comunque, so. Cos'è sto Snapchat? Comunque posso dire che ho tentato di scrivermi, poi mi sono vergognato. No, io sai cosa? Dobbiamo invitare qualcuno, qualche teen. Dobbiamo invitare qualche teen a aggiornarci un po' sui social. No, io sono teen. E allora aggiornaci sui social. C'è il piccione viaggiatore. Siamo la classica indietro. Lettera che facevi alla ragazza. No, una cosa, un aneddoto su MySpace, poi ti lasciamo anche andare. Il bigliettino, vuoi essere la mia fidanzata? Sì, sì no? Forse. Attenzione dove barri. C'era una pagina su Facebook che è tipo dedicata ai 30 anni, no? e loro dicevano che si sono iscritti a MySpace, ma probabilmente è una cosa che ormai è proprio una cosa di ormai abbiamo 30 anni e quindi le cose che possiamo fare è iscriverci a MySpace, perché penso, Instagram non so neanche come si usa. Gli account di MySpace ci sono ancora, penso che col ciuccio in bocca, l'ho fatto 30 anni fa veramente. Tra l'altro era ammalati di MySpace, io mi ricordo che era una malattia, sì. MySpace, una volta... MySpace cos'è? 2004? Ma sono anche prima, prima, eh? Anche prima. Perché io mi ricordo che su MySpace mi ero iscritto e poi dopo tutti mi dicevano sì, ma vai su Facebook, vai su Facebook. E all'inizio Facebook non mi ha preso subito, però poi dopo quando ho provato a iscrivermi ero già dentro tutti. Facebook è molto più immediato. Guarda, io mi sono iscritta su Facebook per colpa di qualcuno che ho qua di fianco stasera, quindi... Io mi ricordo che il primo giorno che mi sono iscritto a Facebook ho passato 3 giorni ad aggiungere, a accettare amicizie perché c'era tutto il mondo dentro. Sì. Però posso dire che Facebook ha cambiato veramente... In peggio, secondo me. Ha cambiato... Però c'è una cosa positiva, che in spiaggia puoi andare anche... Non c'è più bisogno di fare la prova a costume perché tanto sono tutti su Facebook e quindi a smanettare col cellulare, quindi non ti guarda nessuno. Quindi qualche lato positivo c'è. Quello è vero, quello è vero. Però siamo diventati veramente un popolo di idioti. L'hai compreso? Ah, ecco. Ah, noi ci mettiamo in lista. Certo, sì. Siamo diventati. No, ma lui è il primo. Ma anch'io. È più con la faccia di Tolla da prima, no? Cioè, prima c'era la sganza, cioè, trovare il modo per cercare di parlarci. Adesso c'è Facebook, la guardi tra gli amici. Devi mandargli il poke. Allora, mio cugino, poi questa è la foto, ci ha detto, quindi conosce quello. Quella fa l'albero genealogico del paese, fai. No? Genealogico, questo è un nuovo termine. Va bene, andiamo. Visto che stiamo parlando di cose molto. Genealogico. Genealogico. Stiamo parlando di cose molto nerd, andiamo a ascoltare i nerd. Ok. Fit Rihanna. Il brano si chiama Lemon. Ok. Non so se lo conosci. Dai, ascolto un paio di dischi e vado. Va bene, andiamo a ascoltarlo. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Hey, hold me down like the CIA. Hey, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like the TIK. Bouncing around, bouncing. Hey, you keep asking me where I'm from. Hey, about the borders and did I run? Hey, keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side you choose on? Hey, if not now, then when? Hey, and if not me, then who? Hey, don't drink the Kool-Aid, my friends. Hey, I try to tell y'all about this dude. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hate supplements are found right in their couches. Right now. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you're renting. Wave hello to the top. Nigga, the bay wrong guy. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top blown live. Got the hazard on the doom fire. Catch me, Ree, in the new LaFerrari. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting for my thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes like lunch, but it's running from veneers and it's running from the fronts. But every day, hey, well, lemonade, I was afraid. Once a nigga graduate, would I be okay? So I played and I played. It's Rihanna, nigga, my constellation is space. War speed, double spark and chase. Nigga, bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. I get it how I live it. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like guns, which is grinning. Wave hello to the top. Nigga, the vape run by. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top, won't lie. Got the hazard on, only going fire. You can catch me. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Stavamo parlando di... No, perché questa canzone qua ogni volta è balorda. Te lo ricordi? C'è il vuoto. C'è il vuoto. C'è il vuoto e tutto il mondo ha scoperto perché io oggi ho cancellato un messaggio nel gruppo musicale. E perché l'hai cancellato, tra l'altro? Era una foto che non si poteva vedere. Vedi, poi riparte. Senti. Poi riparte. Balordissimo questo pezzo. Mi devo ricordare, me lo devo segnare, guarda. Me lo metto proprio nel titolo. Possiamo non metterlo più, eh. Possiamo anche non metterlo più, bravo, bravo. No, diciamo tutti quanti, stiamo parlando di questa nuova tecnologia, no? Specialmente di WhatsApp. Nuova tecnologia degli anni 90 praticamente ormai, perché cazzo WhatsApp ormai... capite, io sono poco avvezzo alla tecnologia, no? E cioè, adesso WhatsApp puoi cancellare i messaggi. Sì. Quindi fortunatamente se sbagli puoi cancellare. Sì. È difficile gestirlo, perché se ti scappa una foto che non dovrebbe passare, quelle che ti mandano i colleghi alle 8:30 di mattina mi raccomando ragazzi. Il problema è anche il messaggio vocale, perché magari devi, magari stai parlando, stai dicendo una cosa su una persona, lui vivi proprio con la persona, non fai tempo a cancellarlo, questa persona si può anche offendere. Anche perché bisogna vedere, perché se uno che ha sempre in mano il telefono è un disastro, Sì. Lo legge subito, sei fregato, non riesci neanche a cancellarlo. Infatti, che poi anche il discorso del cancellarlo è brutto, perché ti Facebook, WhatsApp, tutti i social, ragazzi, uno si può anche confondere. Facciamone uno unico. Cazzo, facciamone uno unico. Adesso ormai cresce un social al giorno. Comunque ti mette, hai rimosso un messaggio, quindi automaticamente il destinatario ti chiede perché, cosa hai scritto, cosa, c'era qualcosa di strano, e qualcuno magari potrebbe anche sospettirsi. Bene, le 9 sono foto, passate. Sei giustificato. Sì, è di là dopo. No, non è di là. È di là. Okay, non sono ancora arrivati i dati di Epson Meteo per il meteo, quindi attendiamo intrepidi. No, perché le 9 sono passate, quindi a quest'ora solitamente... Mi raccomando, Cri, dobbiamo dare ai nostri ascoltatori l'informazione corretta. No, più che altro anche per noi, che vogliamo sapere com'è il tempo domani, visto che qualcuno dice che nevica, io domani dovrò essere a Luino a lavorare. Io devo lavorare al mattino, tu al pomeriggio. Io devo andare in Emilia Romagna, quindi spero sia... Ragazzi, io rimango qua in zona, non vi preoccupate. E quindi che meteo facciamo? E facciamo il meteo della zona. Facciamo Samadate e basta. Sì, lo sbagliamo. Perché i dati che ci arrivano sono quelli. Epson meteo, quindi capito? È così. Allora, secondo me, secondo il mio meteo. No, no, non dirlo. No, ci vuole la sigletta. No, okay. Allora, se ti sono arrivati i dati, lancio la sigla. Dimmi tu. No, io sto guardando il georadar, perché io sono. Allora, sì, che i dati. Sono quello che si faceva. Allora, facci tu il valletto del meteo oggi. Sei sicuro? Ci sei? Sei pronto? Allora. Aspetta, che c'è la sigla. Sigla storica, sì. Vai. Buonasera. Domani mattina farà modestamente fresco. Siamo dai 2 ai 4 gradi. Cielo sereno, non vedo nuvole in perturbazione. Verso le Alpi invece fiocca. Come diceva il puffo, cielo alto, cielo blu. Consigli per il vestiario: copritevi bene, sennò vi cagate addosso. Quindi ci sarà il vecchio che dice al fioca domani. Sì. Quindi domani è meglio al fioca. Quindi domani pensatemi che io sono in mezzo ai binari a lui, no? Per voi, a lavorare per voi. Avvisate il Nello che lui pensa che domani nevica. Vabbè, vabbè. Ma non attacca? Perché questa è la domanda. Ah, è vero. Attacca o non attacca? Ma sai che lo oppure, ma è neve portata da chi? Lo diceva anche chi? Donald Trump. E dopo questa serie di minchiate, okay, adesso aspettiamoci un bombardamento su Radio Lupo. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, bellissimo. Questa dai. Va per me, dai, questa è bella. Sì, questa è bellina. Tanto mi stanno imbrattando. Speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know that baby, you're the best, yeah. intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that, baby, you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Eh sì, questa era bella Tamara. Sulle balle! Sì. Put your hands in the air. Infatti non ce l'ho ancora cacciato da questa radio, quindi io continuo a metterla. Bella. Prima o poi ci cacceranno anche a noi. Tra l'altro è uscito anche... sta uscendo il disco nuovo, quindi siamo tutti un po' curiosi. Bene. Abbiamo un disco nuovo da mettere a Wolf Trips. Aggiorna, sei lì sul portale. Aggiorna. Vabbè. Settimana scorsa abbiamo fatto qualche altra piccola rubrica, no? Abbiamo fatto solo settimana quella del meteo. Settimana scorsa abbiamo fatto quella del meteo. Poi la viabilità, dai. No. Cazzo, isolati o non ci vede ancora proprio. Quella non ci siamo arrivati. Non andiamo in giro in macchina noi. No, beh, c'è da dire, la provinciale di Sammarate era abbastanza libera prima delle 8, quindi ci sono rallentamenti oltre il ponte di Oleggio. Ecco. Vabbè, ma perché si sa Oleggio com'è, no? Cioè, quando si va in due Oleggio. È così, purtroppo non è che ci puoi fare tanto. Va bene, ormai siamo nel delirio, perché dopo le 9 è sempre così, è un po' come la supplenza a scuola, no? Non sai più cosa fare, inizi a sparare cavolate a raffica. No, però Fabio secondo me ha qualche argomento di cui parlare. Ma no, io... Cos'hai fatto oggi, Fabio? Volete che vi racconti la mia bellissima giornata di oggi? Dai. No, oggi sono andato facciamo in fiera. Salottino. No, oggi sono andato in fiera. Sinceramente non ero mai andato in fiera, per un motivo o per un altro. No, è stato carino. C'era una fucilata. C'era Branduardi fuori dalla fiera, no, che cantavano. Però c'era una fucilata di gente dentro, eh? È impressionante. Non è che hai usato proprio le parole giuste con l'ammasso di gente fucilata, non è proprio il massimo. Però no, ma poi però in tema, dai, con quello che succede, purtroppo. Purtroppo, buttiamola a sorridere. Sì, certo. Bene l'Italia, perché io ho notato una cosa. Sono entrato nel padiglione della Sicilia. Casino, minghia, c'è scritto minghia poi. Bravo, minghia. Casino, delirio, gente che spinge. Oh, voglio le panelle. Minghia, un casino. Poi sono salito un po' più là, passato per la Calabria, che già sentivo l'odore di piccante. Come entravi, piangevo dal piccante. Iniziavi a parlare con le parole aspirate. Bravo. Poi dopo passi su per la campagna, c'era la pizza. Fin quando non comincia a arrivare Centro Italia. Lì era buono. Centro Italia, eh? Già non c'avevo più il portafoglio. Poi andando su, verso il nord, su Tirol, tranquillità, nessuno che parlava. A Milano c'era anche l'orchestra che suonava, facevo gli gnagna, no, i ricconi. Vero? Sì, c'era anche l'orchestra. E ho detto, no, l'hanno rappresentata bene l'Italia proprio. Su Tirol, tranquillissimo. Ho preso una grappettina, che io di solito non sono amante di grappe. Sì. Ma poi sei andato, vai ancora un bancomat. Oh cavolo, ecco cosa ho dimenticato. Ma sei andato ai padiglioni, quelli diciamo un po' più stranieri? Sì, sono stato solo quelli italiani. No, sono passato per la Spagna, poi Austria. I churros. No vabbè, non è che poi mangiare tutti i padiglioni, ragazzi, non è che poteva arrivare la cariola due giorni di giuro. Erano grossi da mangiarli tutti i padiglioni, Mizzica. Ho preso il bretzel, però, che io adoro. Sì, era buono.

running. La stanchezza si inizia a far sentire, eh? Io mi sono seduto. Ci vuole inglese duetto. Maccheronico. No, faceva molto caldo questa canzone, no? Faceva Fabio, molto spiaggia. Gana, usan, gana. Fabio, sono tornata vicino a te. Hai visto, hai mancava visto? La crema. Cazzarola. No, comunque il ragazzo mi ha dato un bello spunto, perché non ero preparato sull'argomento stasera. Invece no, i social, ragazzi. Ma noi non siamo così social poi alla fine. Beh, apparteniamo a un'altra generazione. Siamo un po' più anziani. Sì, sì, sì. No, comunque i social veramente hanno cambiato l'idea di pensare della gente. Vero. Sì, sì, sì, sì. Ma secondo me se tu chiedi ciao, tu come ti chiami? Lui ti dà il suo account, ti rendi conto? Invece una volta... Ciao, per tipo per salutare una persona devo mandare un poke. Bravo. Vero. L'altro giorno non mi hai messo un like. Oh. Ormai la gente è pratica così, le foto. Cioè, vabbè, è proprio una malattia però quella dei like. I selfie, una cosa impressionante. No, i selfie. Cioè, prima una volta di scusa. No, io non pratico. Hanno inventato anche l'asta. Cioè, l'hai vista l'asta per farsi selfie? Devo. Io la prima volta l'ho vista a Parigi. L'asta delle serpi, come le chiama qualcuno. L'ho vista a Parigi. Il bastone piserpi. A Disneyland. Cos'è Disneyland? Disneyland? Cos'è che c'è a Parigi? Disneyland. Ho visto sto papà con quest'asta e gli faccio alla mia compagna. Ma che cosa che, sta facendo? Che se? Ma perché? Perché? Scuse moi. Ma io il bastone di mio padre me lo dava dietro la schiena e me lo facevo arrabbiare. E qualcuno gli ha risposto non fe son in sci. Bravo. Non fe son in sci. giusto, no. Le cose bisogna dirle giusto. E stavo leggendo tra l'altro una bella notizia di una certa Giulia Enrichetta Marx. Che? Non lo so. Chi è? Che chiede di non entrare. Ho fatto qualche cd anche lei. No, è una tizia che chiede di non entrare in un gruppo Facebook e l'aggiungono al gruppo gente che chiede di non entrare in gruppi Facebook. Ah, ha fatto un gruppo per non entrare nel gruppo? No, lei dice non vuole entrare in un gruppo e quindi l'hanno aggiunta in un gruppo che dice che lei non vuole entrare in un gruppo. Cioè, è un loop. Cioè, è proprio top questo. No, vabbè, è una notizia di Lercio, non è che. No, non era vera. Invece io, una notizia vera, hanno fatto un sondaggio nel 2016. Quali sono stati i social più utilizzati, no? Sì. Allora, partiamo dal 5 in su, perché sennò qua... Quindi top 5. Alla numero 5, ta-da! Con 120 milioni di registrati. Sì, ma è una cosa da spiccio, però, Google Plus. Ce l'ho! No, ascolta, no, adesso Google Plus penso che sia la cosa proprio peggio riuscita di Google in generale. E invece al quinto posto, ragazzi. Ma è al quinto posto perché te la ritrovi installata sul cellulare. È per quello che uno ce l'ha. Quindi, la ragazza, uno ce l'ha. Poi, vabbè. Al quarto posto, e non pensavo. Anche lui ce l'ha, Ma perché è già installato sul cellulare? Sì, ma io ce l'ho perché me l'hai detto tu, Vabbè. Sempre tu sei io la causa dei miei mali. Ce l'hai. Lui l'ha vinto come snack e vai. Io ce l'ho doppio. Al quarto posto. Chi non lo conoscesse lo può anche installare. Pinterest. Dai, Nurant. E io mica lo conoscevo. Pinterest serve per condividere i link. Cioè tu salvi solo i link. Ragazzi, no, io l'ho usato per un certo periodo, poi mi sono rotto le balle. Sì, sì. Non sapevo neanche l'esistenza. Al terzo posto, non penso. Aspetta, il momento di la classifica sia quasi scontata. Al terzo posto, l'iscrizione è gratuita, ragazzi. Quindi accorrete subito davanti al computer. LinkedIn. Ecco, LinkedIn invece è un altro aneddoto. Io lo uso parecchio, ma più che altro è una cosa tipo di fregio personale, no? Perché metto le cose che ho fatto. Ah, è tanto per te la canti e te la suoni. Bravissimo. Okay. E una cosa bellissima, in teoria servirebbe per trovare lavoro, no? E c'era un'immagine su internet del tipo: io ho trovato lavoro su LinkedIn. E sotto, CEO di LinkedIn. Ah, sono quelli che dicono: io sono manager specialist account of Scatolamen. Cosa fai? Niente, metto a posto magazzini. Le scansioni del supermercato. Account manager della corsia dei salumi. Cioè, ormai la gente. Superior premium. No, dici, scusa, che lo fai? Faccio il magazziniere, un lavoro comune e onesto. No, io sono il responsabile della logistica della corsia numero 4. Cioè, ma ti rendi conto? Si rivolga al mio superiore. Il mio superiore, la corsia numero 1. Ha detto gli acquisti. Adesso gli acquisti, quello è. La cassiera. Quello lì è no, quella è le vendite. Alle vendite, giusto. Responsabile. Agli acquisti è quello che... seller. Ma responsabile vendite, sei in Italia, di seller. Il peggio di queste cose, poi passiamo a quello oltre, è i chef. Gli chef si sono inventati di quelle cose veramente top chef, tipo gourmet, bla bla. C'hanno dei titoli incredibili che... Fai cuoco. Cuoco, però. Che ci parla tanto, fai cuoco. Cucina. Vieni anche a casa mia se vuoi. Er pizzaiolo. Portateci le pizze, abbiamo fame. Arlava piatti. Vabbè, top 2, dai. Oh. Al numero 2, con i suoi 140 caratteri, e sapete già cosa sto dicendo. Raddoppiati adesso. Sentite il cinguettio? Tum tum tum. Twitter. Fai un po' di applausi, fai battere. Ce l'ho. Oh, su 5, 4 ce li avete ancora. E non sappiamo qual è il primo. Il primo penso che ce l'hanno tutti. Secondo me quando nasci, dopo che ti mettono il braccialetto col nome. No, ma adesso è col codice fiscale, cioè. Ah, ok. Sì. Ti danno anche l'account gratuito. Con il codice fiscale ti danno l'iscrizione gratuita. Al numero uno, ma ormai è scontato, no? È un po' come fare... Vabbè, so, saldi, come il tempo di saldi, sì, è scontato. Ok. Con oltre 1 miliardo di visitatori, rendete conto la differenza tra gli altri 4 che insieme probabilmente fanno quasi quanto lui, Facebook. Detto faccia qua, libro. Qua in realtà ci vorrebbe proprio il silenzio tombale. È quel social che ha rovinato la vita. Il mondo, dei ragazzi. Cioè, vero. Ragazzi, io adesso voglio dirvi una cosa. Ma voi non potete stare tutto il tempo attaccato a sto coso con la F. Cioè, io prendo la metropolitana. Andrebbe bene, però, un'altra cosa. Cioè, andrebbe bene essere attaccati a una cosa con la F. Sì, che non sia. Che non sia Facebook. io con la C, grazie. Per io dire. Mi attacco alla C. K-book. Stavo dicendo, no, perché secondo me ha un po' sminuito anche la personalità delle persone. Un po'? Un po' tanto. Poi diciamo che sei, in alcuni casi sei obbligato, perché mi ricordo tempo fa quando lavoravo presso una ditta informatica, sviluppavamo software per le aziende che dovevano essere su Facebook per forza. Quindi non è che non potevamo avere l'account Facebook. Infatti mi ero anche cancellato, ma poi dopo mi sono dovuto reinserire per forza. Ma Facebook non lo potevo puoi sviluppare. Cancellare, puoi congelarlo. Sì, no, lo puoi il cancellamento è un po' particolare, nel senso che devi fare la richiesta di cancellamento, devono passare un mese, allora dopo iniziano a essere cancellati i tuoi dati. Se in quel mese che tu rifai il login, annulli la richiesta di cancellazione. E ti frega? Ti fregano, sì. Allora i tuoi dati, guarda, che per loro è oro, loro certo, vivono sui tuoi dati. Le aziende vivono sulle banche dati, quindi Facebook è la più grande azienda che fornisce questo. Va bene, dopo questa bellissimo excursus sui social, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi e poi dopo facciamo i saluti e i salumi anche, direi, che inizia a aver fame. Tiriamo la quadra della puntata. Va bene. Questi sono sempre gli Imagine Dragons con Thunder. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, lightning and the thunder, thunder. thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Del lupo. Intanto da questa parte qua c'è il delirio. Che poi diceva clap your ass o clap your hands. Clap your ass. Clap. Your ass. Tra l'altro l'ho fatta io la sigla, quindi dovrei interpretare i tizi che hanno cantato per interpellare, scusa. Interpellare. Interpellare. Sì, un po' dislessi siamo, un po'. Tigre contro tigre. Tre tigri contro tre tigri. Tigre tigre. Siamo spacciati con tutti questi tigri. Mamma mia. Niente, ci siamo. Buon basta. Dove siamo? Fine. Siamo qua a Samarate. Se volete venire ci a portarci da mangiare. Stasera serate Radio Lupo non ce n'è. Avete due minuti di tempo perché poi stacchiamo. Serate Radio Lupo non ce n'è questa sera. Mi dicono che hanno organizzato il capodanno di Radio Lupo. Dove? Dice? All'Opera Rock, così quanto pare. Io dovrò vedere. Devo cosa vedere fai gli impegni. A capodanno, Fabio? Ragazzi, faccio una cena. Cosa volete che faccia? Giustamente, che cacchio. Questo mangia sempre. No, però se mangi tranquillo con gli amici, due chiacchiere, parte il vinello, parte l'amaro, un grappino. No, la grappa no. Pari due botti. E poi un altro amaro. Vabbè. Capodanno tranquillo. Come invece dire. Stasera noi ce ne andiamo, dove andiamo? Stasera ragazzi, potete trovarci, andiamo a Mille Note. Oltre a Mille Note a Busso, ci dovrebbe essere anche uno della radio, che è Diego, che saluto, che suona al Tigarba Bar. Ciao Diego. Ciao Diego. Salutiamo anche il Family Pub, giusto per... Ciao, certo, Pub. Ci manca il saluto del venerdì sera, infatti. Il Family Pub, ma i nostri amici. Ma quando è che il Family Pub viene qua durante la nostra trasmissione? Sai che non sarebbe una brutta idea, adesso glielo propongo. Rappresentati con, non so, due o tre birrette a testa. Tanto tempo. Glielo posso proporre, sai? Non sarebbe una brutta idea. Una joint venture. No, cioè noi facciamo i pirla come al solito. Un brainstorming. Un brainstorming. brainstorming. Comunque, che andiamo a vedere stasera? Allora, andiamo a vedere quindi i Go Garage Orchestra. Ah, perché si erano andati. I Go. E poi dopo invece l'altro gruppo mi sembra che si chiama, non me lo ricordo, Stonefly. No, Stone Sour. Stonefly sono sulle scarpe. Povero Diego. No, aspettate. No, adesso lo diciamo giusto, dai. Che sennò mi ammazza, borraccio. No, vabbè, voi andate Diego, avanti. Diego, ti aiuto, Diego. Diego, no. scrivici al 338-222-8983. No, subito. No, ma voi andate avanti a parlare, intanto che io cerco come diamine si chiama. Anzi, Fabio, questo... Fabio, mandaci... vieni su Facebook stasera. No, guarda, faccio un giro su Twitter. Allora ci vediamo su Twitter. E niente, Snapchat. E cos'è sto Snapchat? Ma che cazzarola ne so. E niente, comunque suona al Tigarba Bar. Se ti piace Tigarba, è lì a Legnano. Mettete like sulla pagina Facebook. Salutiamo il Tigarba Pub. Va bene. Per questo venerdì direi che è tutto. Da un Google Plus, un LinkedIn, un Twitter, un Facebook, LinkedIn. Un Pinterest di quel canale. Io vi saluto e ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima è il 15. Sì, dai, dovremmo. Non può essere il 15 settimana prossima. Come no, sto guardando adesso il calendario. Ragazzi, ma voi sapete che giorno è il 15? No. Metti su un rullo i tamburi. Metti su un rullo i tamburi. Il tuo compleanno. Ebbene sì, è il mio compleanno. E allora? 18 anni. Grande, vai. Divento maggiorenne. Pure le cuffie si sono suicidate. Papà, voglio la macchina. No, seriamente, tuo compleanno. Certo. Fabio, allora vieni qua. Allora con vieni i pasticcini, bastardo. No. Passano i pasticcini, ma penso di avere invitati sempre a cena. Porca miseria, vabbè, scusami, allora, allora Fabio... se sei a casa tua ti chiamiamo, dai. No, se sei a casa tua passiamo. la trasmissione è sospesa, direi. Sei la linea di... Il programma ti prenderanno il più presto possibile. Settimana dopo. Vabbè, allora ascolta, facciamo così, ci vediamo, il 15 ci vedremo noi. E direi che poi se magari riesco, se, un salto lo faccio. Se vogliamo, se no ti chiamiamo, dai, facciamo gli auguri. Se no mi sa che poi concluderemo l'anno con la puntata del 22 o 29, mo vediamo. Queste qua sono le serate. Io punterei il 29. Il 29? Se, non si, se siamo ancora qui, chi io lo, chi non lo mi può muovo. Dire? È che il 22 probabilmente ho... Una cena, dai! Ma che non è Natale il 22? No, però è il compleanno della mia compagna, il 18 lo facciamo il 22, quindi... Vabbè... ho capito che devo allargare la porta dopo tutte ste cene. Ma ascolta, ma Fabio, non si usa più festeggiare il sabato, il venerdì? No, è vero, lei mi ha detto che lo faremo il sabato, quindi allora ci sono, ragazzi. Volevi biggiare. Allora, controllami! Volevi biggiare. E allora ne faremo altre due, no? Sì, sì, sì, sì. Beh, Fabio, ascolta, portaci anche i pasticcini. Settimana prossima le porto io, ragazzi, mi raccomando, quindi nessuna intervista. Va bene, siamo... una festicciola tranquilla tra di noi. Va bene, dai, ci siamo divertiti. Spero che non vada la webcam settimana prossima, perché... Imbriachi. Direi che ci siamo divertiti, le nostre cavolatine le abbiamo dette, Fabri l'abbiamo intervistato, direi che salutiamo. Ce ne possiamo andare. Salutiamo. Salutiamo. Direi che ce ne possiamo andare. E ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.